накопители с гарантией 6 месяцев. В наличии новые ИБУ запчасти стабилизатор и дешпекер. Режим работы с 9 до 20 часов. Телефон на связи 8-911-926-41-43. 926-41-43. 926-41-43. Si possono, io ne ho tanti. Tranquillo lui. Sì, non c'è che lo contagio, in quello via. Io non ce l'avevo io. Troia. Io non so se era dolore ai reni da non poter stare, ho dovuto prendere 3 antidolorifici perché non mi passava. Sì, sì, sto capo della cosa che è micidiale qua. Troia. Non ne manca mai, no? A carità. Non so, questa influenza sta prendendo la diarrea, a mal di pancia forti. Sì, sì, sì. Mamma mia, guarda, ti giuro che non sto bene. Non ti hai preso niente? Sto parlando con mia cognata già. No. Già. Stavo dicendo che è così, è pigliando di varie, questo capo di coso. Ma e cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Fidati qualche cosa, per passare. Ma si fanno fa il soccorso, è quella la ragione. In realtà è un dramma niente, a un certo punto non riuscivo più a stare. Sempre là? In capannone, sì. Se non stai bene, non stai bene, c'è poco da fare. Sto facendo, si fa aggiustando un po' tutta la roba, che ha bisogno di manutenzione. Ah, il capannone, ho capito, dai. Quello delle... siamo di lutto. No, pensavo dove lavoravi a Milano. No, no, oggi era il capannone. Lì. Vabbè, se non ve la vai, non ve la vai anche. Magari se ti prendi un attacco in pirina ti passa. L'ho già presa, no. L'ho già presa. Oh, mamma mia, ma... sto male. Lo so, tu, è una rottura di palle. Ui, ui, ui, ui. Cos'è zaino, Bighele? Raga! Che avanti? Ah, ti è cos'è zaino, ui? Ehi, a te mi puoi stare di laino. Era della crucca a me. Ecco, su visendo, ui. Buonasera. Ah, già ho figlio io. Non ho capito chi è, comunque buonasera. Ciao, ciao, buonasera, dai, se sono in ascolto. Ciao, ciao. Ciao, mattino sì, che c'è una radio diversa. Ah, sono Luca, Giovo 757, ciao, ciao. Ah, ecco. Ecco, ecco. Va bene, Luca, dai. La benedizione ce l'hai data. Dopo non ti lamentare. No, no, è sotto camera, sei in ascolto. Ciao, ciao. Ah, ciao, Luca. Aspetta, ti cresci di dopo la lecce da buco. Come a tutti? No, già. Ho detto che ti crescono le orecchie pure, a furia di ascoltare. Ehi, come ti sono fanno i tutti? Ciao, ciao. Va bene, dai, ciao, ciao. La benedizione ci ha dato. Va bene, dai. Ma un po' si comincia. Se vuoi ti dica. Cominciava a venire il figlio e si è andato tutti i gatti in giro, non c'è più nessuno di questo. E l'inverno a chi è freddo, l'estate che è caldo, vabbè, non c'è da fare le sue cose. Purtroppo stavo lavorando, sono già, già lo sai che entro. È meglio, Anto, meglio se stai lavorando, non ti preoccupare. Uno quando lavora è già... è già una cosa buona, dai, per carità, c'è una da fare, non è che dici dici nulla. Però c'è gente che magari si lamenta e poi non entra nemmeno lui. Cosa ti posso fare? Io quando posso già accendo, sono sempre in radio. E anche io, intanto le radio sono sempre accese, per le sere le accendo, tutte quante, di modo che non si rovini. Per quanto è accese, adesso mi devo cominciare a usare il Royce perché sono un po' che non lo uso e adesso sto usando il K. Poi farò il giro, dai, di nuovo perché così a me ne c'è anche in trasmissione. Lo vuoi usare, dai. K. Vabbè, e che te devo dire? Vabbè, dai, io guarda, un'altra mezz'oretta posso stare. Se il cane non mi chiama, perché se vuole andare giù devo andare, perché se no si mette tanto. Quel cane ogni tanto ha bisogno. Ha bisogno di... come si dice? E io lo porto sempre, non c'è problema. Come lui deve andare mi chiama, me lo fa lui, fa mi vuole la mimica. Piccolino. Cioè si fa capire, sì. Il buon amico va verso la porta, di modo che lo può che bisogna portarli, non è che lo lascio l'ultima. Ma l'altro giorno non solo, poverino, sono uscito, sono andato in banca, sono tornato a casa, sentivo questo odore di pesce, brutto, che strano di odore, che io pesce non ne ho fatto, via di te, io pesce non ne ho fatto, sono andato a guardare il terrazzo della diarrea, se avevo cagato il terrazzo. Non ce l'ha fatta, poverino, però è educato, mi va in terrazzo, non è fatto in tuo caso. Poverino. È piccolino, adesso poi sempre solo, cioè sempre solo con te, come si afferra se vede a figare? Sì, no, se sono maschi non fa avvicinarlo, non fa avvicinarlo se sono maschi da piccani. Mira, lo senti, sta chiamandomi, lo senti? Dico se, i vermi ti piacciono a te, eh? E allora, ma c'è tutte quante zittelle queste femmine che ci sono qua, sono tutte sterilizzate, non vogliono che ci avvicini a me. Ah, ma da cagare. Un posto troppo strano. Adesso sei entrato, tanto pure ce li da prima, perché io ho provato a accendere e non c'era nessuno. Quindi io ho detto, ma adesso vedo più tardi, infatti ho spento il telefono perché stavo cantando e canta anche lui con me, lo sai, ci vuole agganciare con una risata. Colino. Ma non sai cosa gli piace? Quella canzone Emozioni di Toto Cutugno. Oh. Tutte le cantoniate, Lord Sudovest Est, gli piace. C'è proprio le canzoni precedenti, certe non canta, ma certe se le canta tutte. Quindi sono arrivati alla prova, i fari nuovi, sono una figata, sono. Ah, li avete provati? Sì, battono un bel. E adesso fra poco cominciano i concerti anche. Sì, l'ho pagati molto meno di quelle là, che funzionano molto bene. Hanno fatto bene le Alghero che stanno organizzando già roba di canto. Sì, a quanto ho capito ci sono i fu pure. Sì, ci sono i fu anche. Entra nel freddo, mamma mia. I fu sono bravi. Me li vorrei vedere. I fu li vorrei vedere ad Alghero. E infatti lo dico a Massimo, per amico mio, se siamo liberi tutti e due, se non sta lavorando, perché a volte fa le nuove, ci andiamo a vedere. Entrando lo freddo, entrando perché, come si dice, perché cazzo c'è da lavorare un bel a fare eventi del genere, perché fanno mezza produzione, fanno. Sicuramente così, cioè praticamente metà l'impianto, le luci e l'audio lo facciamo noi e loro si fanno il black line, cioè la batteria, l'istrumentazione, tutta la roba lì. Ho capito, ma voi in certi concerti fate anche la strumentazione? Sì, se la vogliono sì. Allora ti lascio perché questo si sta mugugnando, se no ce la vado in là. Se ne vuole scendere giù, mi dispiace ma ti devo lasciare. Dai, guarisci presto e statene un po' al calduccio, dai. Ciao. Ciao a tutti.